così, non possiamo farne un dramma. Conoscevi già, hai detto, i problemi miei di donna. Certo che lo so, certo che lo so, so. Non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare. Forse è tardi e rincasare può. No che non vorrei. Io sto bene in questo posto. No che non vorrei. Questa sera ancora presto. Ma che sciocca sei, ma che sciocca sei. A parlar di rughe, a parlar di vecchie streghe. Meno bella certo non sarai. E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, e tu sai che io potrei purtroppo non essere più solo. Cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu. Nasce l'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi di più. Lasciami giù qui, è la solita prudenza. Loro senza me, hai detto, è un problema di coscienza. Certo che lo so, certo che lo so. Non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare. Ora è tardi e rincasare fuori. Oh, no, che non vorrei. Io sto bene in questo posto. No che non vorrei. Dopo corro, faccio presto. Mario Biondi, ladies and gentlemen. Meno bella certo non sarai. Già hai detto i problemi miei.